Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata il bilancio di previsione della Regione per il 2022 e triennale 2022-2024. Quella di quest'anno sarà una manovra da 12,8 miliardi di euro. La parte del leone è riservata come sempre alla sanità, che assorbe il 76% delle risorse regionali. Le tasse rimarranno invariate. Il pacchetto di provvedimenti economico-finanziari è stato approvato a maggioranza nell'ultima tornata assembleare di quest'anno. Sentiamo la capogruppo del Partito Democratico, Marcella Zappaterra. Abbiamo approvato un bilancio virtuoso, nonostante i devastanti effetti economici e sociali della pandemia, un bilancio che metterà la Regione Emilia-Romagna in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni con fortissimi investimenti su lavoro, innovazione, welfare e digitalizzazione. Importante l'aspetto sanitario, è chiaro che siamo una delle regioni che meglio ha combattuto la lotta al Covid e continuiamo a combatterla con un'elevata copertura vaccinale. Certo, sono aumentate le spese in questi anni, ma è aumentato anche il riconoscimento da parte del governo dell'ottimo lavoro fatto e del budget. Nelle intenzioni della Giunta, il bilancio di previsione del nuovo anno si pone un duplice obiettivo: fronteggiare l'emergenza ancora in corso e allo stesso tempo creare le condizioni per la ripartenza economica e sociale della regione. Una ripresa, secondo i dati Nomisma, già avviata nel 2021. Critiche dalle opposizioni, contrarie ai provvedimenti. Sentiamo il commento di Matteo Rancan, capogruppo della Lega. Vi è poca incisività sulle imprese, vi è poca costruzione su formazione e lavoro, vi è nulla sulla semplificazione, anche a fronte di un patto per la semplificazione che doveva essere la soluzione di tutti i problemi, ma in realtà poi quando si parla di cifre e di soldi non è presente. Però dobbiamo esprimere anche soddisfazione per quelle che sono state alcune nostre proposte approvate per realizzare la quarta corsia tra Modena e Piacenza dell'autostrada 1, per poter mettere in sicurezza dei ponti di interesse interprovinciale e per poter aiutare quindi tutti i nostri comuni che hanno presentato la domanda sulla rigenerazione urbana a poter avere questi fondi per i nostri comuni. E come dicevamo, il bilancio regionale riserva 9,8 miliardi di euro alla sanità, 800 milioni in più rispetto all'anno in corso. Per il fondo della non autosufficienza sono stati stanziati 500 milioni. 8,5 milioni serviranno per rifinanziare l'esenzione del ticket nazionale sulle prime visite per le famiglie con più di un figlio a carico. Ascoltiamo il capogruppo di Emilia Romagna Coraggiosa, Igor Taruffi. La tassazione è invariata, è un bilancio espansivo, soprattutto continuiamo a investire in sanità, anche se devo sottolineare come a differenza del passato dal governo quest'anno non arrivano le stesse risorse. Ciononostante è un bilancio che segnala ancora un forte investimento sulla sanità territoriale. Nota positiva sono anche i 5 milioni che sono stati stanziati per rifinanziare il bando per le giovani coppie che intendono acquistare o ristrutturare la prima casa in montagna. Di parere opposto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marco Lisei. Nonostante un aumento significativo della spesa sanitaria, purtroppo tanti temi sanitari non vengono affrontati dalla carenza dei medici di base, sempre più assenti nei territori disagiati, nelle zone montane, alla carenza di un'assistenza di pronta emergenza e la sostituzione delle auto mediche con le auto infermieristiche e un depotenziamento sostanziale dell'offerta di sanità territoriale. Anche sulla parte economica richiederebbero maggiori investimenti per potenziare la rete commerciale e aziendale della nostra regione. La spesa per investimenti nei diversi settori è pari a 817 milioni, che arriveranno ad un totale di 1,8 miliardi di euro nel triennio 2022-2024. Il bilancio per la prima volta istituisce anche uno speciale fondo per sostenere l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza. Soddisfazione di Giulia Pigoni della lista Bonaccini. Un emendamento importante per 1 milione sul reddito di libertà a sostegno delle donne che trovano la forza di denunciare perché possano reinserirsi. Anche dei provvedimenti importanti a sostegno delle associazioni sportive, a sostegno degli enti locali per quello che riguarda l'impiantistica sportiva e anche delle famiglie numerose attraverso nuovi voucher perché i ragazzi possano partecipare alle attività dello sport. bilancio 2022 prevede anche 22,5 milioni per abbassare le rette dei nidi e 28,5 milioni per garantire la copertura al 100% delle borse di studio universitarie. Analizzando i diversi capitoli di spesa, Valentina Castaldini di Forza Italia rimarca l'importanza di investimenti su welfare e lavoro chiedendo maggiori risorse. Crediamo che ci siano temi fondamentali che sono stati sottovalutati. Innanzitutto Forza Italia ha presentato emendamenti che riguardano i caregiver, era giusto dare più fondi soprattutto a questa categoria. Secondo aspetto, i bisogni educativi speciali, anche lì bisognava avere un occhio di assoluto riguardo. E poi infine maggiore attenzione come sempre a chi dà lavoro in questa regione, perché lavoro, giovani devono essere il tema e il faro puntato di questa regione. Per la difesa del suolo e della costa e per la protezione civile stanziati 61,7 milioni. Sul fronte ambiente continuano gli investimenti per il bacino padano, con progetti per il miglioramento della qualità dell'aria per 16 milioni di euro. Sentiamo cosa ci ha detto Silvia Zamboni di Europa Verde. Promozione delle strade scolastiche, promozione del cicloturismo anche per intercettare questi nuovi flussi di turismo dall'estero e completamento del servizio ferroviario metropolitano nell'area bolognese. Sono le tre voci sulle quali si è concentrata Europa Verde nell'affrontare la complessa manovra di bilancio. Sempre in tema ambientale, Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle rimarca alcune priorità. Questo è un bilancio che è evidentemente condizionato dalla pandemia che stiamo vivendo, però come Movimento 5 Stelle abbiamo voluto ugualmente avanzare delle proposte, soprattutto in ambito ambientale, che significa comunque sanità e salute. Abbiamo chiesto alla Regione di continuare ad incentivare l'acquisto delle auto elettriche da parte degli enti locali e abbiamo chiesto, all'interno delle valutazioni che si fanno periodicamente della legislazione regionale, di inserire anche gli impatti ambientali. Critiche sugli investimenti per la montagna da Marco Mastacchi di Rete Civica. Non trovo molte risposte per gli aspetti territoriali, in particolare legati alla viabilità e al territorio della montagna. Si conclude qui la nostra ultima puntata di questo 2021. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui nostri profili social e sul sito assemblea.emr.it. Da tutta la redazione di Assemblea On Air, sentiti auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo. A risentirci nel 2022. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna. Programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini, Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire. Direttore Mauro Sardi.